sì, che prosciutto nel mondo che sta qui. Sono pochi che dicono la verità, sono pochi che danno sincerità. Qua giù è cominciato tutto così, così va avanti tutto qui. Quella prima volta ha cambiato la verità. Potrai.